TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio a un trasformatore elettrico ad olio al polo siderurgico della Pittini a Osoppo, ancora da chiarire le cause del rogo. Resta l'invito alla popolazione a tenere chiuse le finestre. Tabacco travestito da merce comune, maxi sequestro a Tarvisio, il tentativo scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo a un tir polacco diretto in Lituania. Addetti al ricevimento, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi e banconieri e lavapiatti. 100 i posti di lavoro messi a disposizione da 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio, alla ricerca di personale in vista della stagione invernale. Oggi il Recruiting Day a Udine. All'ospedale di Catinara al via la sperimentazione di una nuova macchina che promette di individuare precocemente i tumori al seno. Non emette radiazioni ed è indolore. Si cercano centinaia di volontarie per sperimentarla. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura torniamo sull'incendio scoppiato ieri nel polo siderurgico Pittini di Osoppo, domato verso le 23 dopo un intervento durato molte ore e un vasto spiegamento di forze. L'operazione di bonifica è tuttora in corso, le fiamme sono scaturite da un trasformatore a olio all'interno di un capannone. La popolazione è ancora invitata a tenere le finestre chiuse per il fumo, scattata anche l'attività di monitoraggio ambientale. Spento l'incendio si comincia a fare la conta dei danni. Allo stabilimento delle Ferriere Nord del gruppo Pittini a Osoppo i vigili del fuoco stanno ancora lavorando. Sotto la pioggia battente mettono in sicurezza l'area e si occupano di eventuali residui dispersi nell'ambiente. Il grosso del lavoro è stato fatto nel pomeriggio di ieri, quando intorno alle 16 un incendio è scoppiato nella sala del trasformatore dell'acciaieria. Durante le operazioni, durate oltre 6 ore, le fiamme sono state contenute al capannone già colpito, bloccando eventuali sviluppi. Insieme a loro hanno lavorato le squadre di soccorso del gruppo. L'amministratore delegato di Ferriere Nord S.p.A. Marco Minini. Le nostre squadre di sicurezza sono prontamente intervenute, dando la precedenza alla sicurezza delle persone, e anche grazie a questo fortunatamente nessuno ha avuto delle conseguenze. A essere colpito è stato il trasformatore a olio che alimenta il forno di fusione con cui l'acciaieria ricicla i materiali ferrosi. La produzione in questo momento è sospesa per i tempi necessari al ripristino del danno, che sono ancora in valutazione. In questo momento non è facile dare una quantificazione del tempo necessario per il ripristino. Per capire le cause su cui sono aperte le indagini sarà necessario smontare e aprire il trasformatore insieme alla ditta costruttrice. Secondo le rilevazioni dell'ARPA, l'incendio non ha sprigionato polveri sottili oltre i valori di attenzione. Alla popolazione del comune è stato comunque consigliato ieri di restare a casa e di tenere chiuse le finestre. Il sindaco di Osoppo, Lorenzo Tiepolo. Oltre ad aver fatto i giri con la protezione civile, mi sono attivato direttamente sui social, particolare che WhatsApp, che avvisa comunque la popolazione, Facebook e tutti i vari canali, la popolazione ha risposto bene chiedendo chiaramente tutte le informazioni, chiedendo come fare, come poter risolvere la questione. Osoppo, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Tarvisio ha sequestrato 15 tonnellate di tabacco lavorato destinato al mercato estero, trasportate da un autoarticolato polacco diretto in Lituania. Quello che inizialmente appariva come un controllo di routine sulle merci viaggianti sul territorio italiano si è infatti trasformato in una complessa operazione investigativa. I documenti di trasporto esibiti dal conducente polacco, pur non presentando criticità evidenti, contenevano alcune particolari informazioni che hanno insospettito i militari e portato alla scoperta dell'ingente quantità di tabacco industriale lavorato trasportata in evasione di imposta. A differenza dei tradizionali traffici illeciti, nei quali l'obiettivo è quello di occultare completamente la merce, in questo caso i trafficanti hanno tentato di trasportare il tabacco facendolo apparire come merce comune, con l'obiettivo di ingannare gli organi di controllo. La volontà non era quella di occultare il tabacco, ma di farlo passare per una normale spedizione commerciale, sfruttando la documentazione per nascondere il carico in piena vista e superare i controlli delle autorità italiane. La merce sequestrata equivale a 750.000 potenziali pacchetti di sigarette, che immessi sul mercato avrebbero avuto un valore commerciale di circa 3.760.000 euro. Sulla A4 Torino-Trieste in direzione di Trieste si registrano code a causa di un incidente avvenuto tra il bivio con la A34 e Duino Aurisina. Ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 16 gradi, a Gorizia 15 gradi e mezzo, a Udine 15, a Pordenone 14 gradi e mezzo, a Tarvisio 12 gradi, a Tolmezzo 10 gradi e mezzo, a Piancavallo 9 e mezzo, a Forni di Sopra 9 gradi, a Sappada 6 gradi e mezzo, sul Monte Lussario e sul Monte Zoncolan 6 gradi, a Grado 17 gradi e mezzo, a Lignano 15 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio avremo cielo in prevalenza coperto con piogge sparse in genere abbondanti, più attenuate sulle zone occidentali, più probabili comunque nella prima parte della giornata sulle zone orientali, specie sulle Prealpi Giulie e sulle valli del Natisone. Le piogge potranno essere intense, forse anche temporalesche. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, temporaneamente anche sostenuto nelle ore centrali, vento da sud-ovest anche sui monti in quota, probabile formazione di foschie in pianura e sul Carso, specie in serata. Domani su pianura e costa orientali, sulle Prealpi e Giulie, cielo in prevalenza coperto con piogge sparse da moderate ad abbondanti, sulle zone occidentali in prevalenza nuvoloso e piogge assenti o per lo più deboli. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, probabile presenza di foschie in pianura e sul Carso, specie nelle ore notturne. Sono oltre 2.000 le domande di contributo pervenute per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico negli edifici privati. L'ampia partecipazione riscossa da questo bando regionale testimonia, da un lato, l'interesse della popolazione per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, dall'altro l'utilità delle misure concrete adottate dalla Regione, con un'attenzione particolare alle famiglie a basso reddito. Poiché le richieste ricevute superano le risorse disponibili, la Regione provvederà alla chiusura del bando alle 16 di martedì 4 novembre. Le domande non finanziate entro il 2025 conserveranno la loro validità e potranno essere soddisfatte nel corso del 2026. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Almirante, ricordando che questo strumento è stato pensato per sostenere i cittadini in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e per contribuire alla riduzione dei consumi e delle emissioni in linea con gli obiettivi del piano energetico regionale. Il bando è rivolto alle persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia con ISEE fino a 25.000 euro, titolari di diritti di proprietà, anche parziali o di altri diritti reali, usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari situate nel territorio regionale. Sono ammessi a finanziamento interventi che riguardano l'installazione di serramenti, sistemi di isolamento dell'involucro edilizio e della copertura, nonché impianti solari termici, fotovoltaici e sistemi di accumulo. I contributi, concessi fino al 75% della spesa ammissibile, sono calcolati in base alla superficie interessata e alle tipologie di intervento. È prevista la possibilità di anticipare l'erogazione del contributo tramite la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è anch'esso ammesso a contributo. In alternativa, l'erogazione può avvenire a conclusione dei lavori, a fronte della rendicontazione semplificata delle spese sostenute. Oltre il 68% dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia sono favorevoli all'accordo che prevede l'utilizzo degli straordinari per recuperare i volumi di produzione richiesti dal mercato, e cioè 22.000 apparecchiature da qui a fine anno. Sentiamo le reazioni all'esito del referendum. All'Electrolux di Porcia vince il partito del sì. Il 68% dei lavoratori ha deciso che si lavoreranno 4 sabati da 6 ore in straordinario per soddisfare le richieste del mercato. 22.000 lavatrici, di cui 12.000 di recupero e 10.000 per i nuovi ordini da Est Europa e Australia, per chiudere a 722.000 totali. 8, 15 e 29 novembre, 13 dicembre, i giorni di lavoro in più. Gianni Piccinin, CISL. Se facciamo uno sforzo, il risultato finale deve essere al 100%. Non può essere all'80%, perché comunque si continua a perdere pezzi durante la settimana. E su questo noi chiediamo che l'azienda assolutamente si impegni. Ha votato il 75% degli aventi diritto, 569 lavoratori, 292 i sì. L'accordo prevede la chiusura dello stabilimento dal 24 dicembre al 7 gennaio e si lavorerà sabato 10 gennaio anziché rientrare in fabbrica il 5. Simonetta Chiarotto, CGL. Credo ci sia stato anche un gran lavoro dell'RSU nel spiegare, dopo l'assemblea dei lavoratori, che cos'era quell'accordo e credo che alla fine l'atto democratico del referendum è stato proprio questo, votare e far decidere ai lavoratori. Le maggiorazioni sono del 50% con 3 euro in più per ogni ora di straordinario. Gli ammortizzatori sociali attivati il 17 marzo scorso sono stati sospesi 2 settimane fa. La prossima settimana prenderanno servizio 13 lavoratori appena assunti. Roberto Zami, Will. Il contesto che si è generato attorno alle assemblee che abbiamo effettuato con i lavoratori hanno fatto emergere, nonostante l'avessimo detto più volte, la necessità di intervenire rispetto a alcuni problemi di natura gestionale e organizzativa. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine nuovo recruiting day, 229 candidati per 100 posti di lavoro nel turismo, messi a disposizione da 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio alla ricerca di personale in vista della stagione invernale e delle festività. In molti casi sono a tempo indeterminato i contratti per i lavoratori del settore turismo messi a disposizione dal recruiting day organizzato a Udine dalla sezione locale di Confcommercio in collaborazione con la Regione. Un centinaio i posti offerti a fronte di quasi 400 curricula inviati, poi ridotti a poco più di 200 in seguito alla selezione operata dalla Regione. Spiega Sabrina Marchiol della Direzione Lavoro Regione Friuli Venezia Giulia. E chiamano a colloquio, a incontrare le aziende, solamente le persone che sono in linea con i requisiti richiesti dall'azienda, proprio per massimizzare ovviamente il lavoro. Per le aziende il recruiting day rappresenta una chance per superare le difficoltà nel trovare le persone giuste nonostante l'espansione del settore, come evidenzia Alessandro Tollon, vicepresidente Confcommercio Udine. La difficoltà maggiore è sicuramente trovare un candidato giusto, quindi una professionalità, e trattenerla in azienda. Il mondo del turismo ha un aspetto che è critico, e cioè si lavora la sera, si lavora quando gli altri si divertono, quindi nei weekend, si lavora durante le feste. Ma non c'è solo l'ostacolo dei lavori a turni, come chiarisce Nadia Piran dell'ufficio personale Gallerini Hotels. Figure che ricerchiamo sono in tutti gli ambiti, però di base quelle più difficili sono quelle ad esempio a livello di direzione o comunque all'apice, proprio per una questione di formazione. Andrea Schiffo, collaboratore dell'hotel Le Crosere. Tante volte l'esperienza, specialmente per quanto riguarda il settore della cucina, delle preparazioni, che è quello un attimino che richiede più una presenza, sì, un'esperienza comprovata, è quello, almeno nella nostra esperienza, più critico. Per i candidati la possibilità di avere un contatto diretto con le imprese di maggiore interesse per la propria carriera. Il recruiting day hai poco tempo e tante persone e c'è molta concorrenza. Poter trovare un lavoro che possa insomma soddisfare le loro esigenze sia da parte delle appunto strutture che vengono qua a ricercare sia per appunto le persone che cercano lavoro, ecco, quindi penso sia molto molto utile. Udine, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. A Catinara si testa una nuova macchina, la MammoWave, che promette di individuare precocemente i tumori al seno, non emette radiazioni ed è indolore. Si cercano centinaia di volontarie per sperimentarla. Per aderire le informazioni sono sul sito di Asugi digitando MammoWave. Sfrutta anche la tecnologia del microonde, quello che abbiamo nelle nostre cucine, ma come funziona ce lo spiega l'ingegnere della ditta Umbra che lo ha inventato, Giovanni Lisoni. Questa apparecchiatura rileva attraverso due antenne che ruotano intorno alla mammella le differenze o i contrasti tra l'aspetto dielettrico e sostanzialmente la struttura normale che fa parte del seno. I dati vengono poi presi, elaborati attraverso l'intelligenza artificiale e viene poi rilasciata una mappa colorimetrica e una mappa numerica che determina la possibilità o meno di alterazioni del tessuto della mammella. Da qui nasce poi la possibilità di proseguire l'indagine se è positivo. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi a Udine il quarto incontro del ciclo Donne e diritti, donne consapevoli, non vittime, proteggere dati e denaro. Conversazione con Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi e Alice Boeri di Io, Tu, Noi, Voi, Donne Insieme. La cronaca e la vita di tutti i giorni ci fanno capire sempre più quanto sia importante per le donne imparare a gestire le proprie risorse economiche, sviluppare e proteggere la propria autonomia economica, proteggere i beni e dati personali per prevenire consapevolmente ogni forma di violenza economica e di truffa. Alla Casa delle Donne alle 18. Alice Boeri, presidente di Io, Tu, Noi, Voi, Donna Insieme, ci spiega perché le donne spesso non sanno e non sono interessate a gestire il denaro. Sicuramente è un problema culturale innanzitutto, nel senso che le donne hanno avuto la possibilità di gestire il patrimonio molto più tardi degli uomini, proprio per una questione legislativa, ma non sono state mai educate a farlo tendenzialmente, per cui c'è proprio un'impreparazione delle donne culturalmente alla gestione del denaro, perché non la sentono come cosa loro. Anche le donne che comunque hanno un'autonomia economica, quindi hanno un lavoro, uno stipendio, tendono comunque a delegare i mariti, i compagni, alla gestione del denaro, dei finanziamenti, degli investimenti, perché non la sentono come una cosa che le riguarda. Questo è un grosso problema, perché poi loro si disinteressano della gestione del denaro e questo innanzitutto le pone in una condizione di minor potere decisionale rispetto ai propri compagni e mariti e le rende sicuramente vulnerabili. E questo si riflette anche nella situazione delle truffe, perché le donne denunciano di meno. Esatto, lo spiegherà appunto l'avvocata Puschiasis, che le donne tendenzialmente denunciano meno perché sono anche in quel caso lì molto vittime del senso di vergogna che le condiziona tantissimo, e questo lo vediamo anche noi spessissimo lavorando al centro antiviolenza con le donne. C'è un senso di vergogna molto forte che impedisce loro spesso anche di chiedere aiuto, di farsi aiutare, di ammettere che comunque c'è della violenza e va affrontata e bisogna fare un percorso per uscire. E il senso di vergogna purtroppo è una spada di Damocle sulla testa delle donne da sempre, e beh, ma è un po' questo ci porta la società a pensarlo, no? C'è ancora una narrazione in cui c'è una colpevolizzazione delle donne, quindi siamo comunque anche qui culturalmente abituati a colpevolizzare le donne, e questo porta in loro chiaramente un senso di inadeguatezza e di vergogna che poi si riflette su tutti i fronti, anche nel caso delle truffe. Ora parliamo della settimana del cappello alpino in programma dal 10 al 15 novembre, una serie di eventi culturali e formativi che culminerà sabato 15 in Piazza Unità con la cerimonia solenne di consegna del cappello con la penna ai giovani volontari in ferma iniziale che hanno concluso la formazione in montagna presso il centro addestramento alpino di Aosta. L'evento è stato presentato oggi in comune alla presenza del sindaco di piazza. Abbiamo sentito il colonnello Mario Renna delle truppe alpine dell'esercito. Trieste è una città legata alle forze armate, legata al tricolore, quindi portare i nostri alpini in un luogo simbolico, permeato comunque di storia, poi in una piazza meravigliosa, aiuta secondo me anche, no, a far sì che non dimenticheranno mai questo momento in cui ricevono il cappello, e lo ricevono perché lo hanno meritato dopo aver superato un corso abbastanza impegnativo. Questa è una tradizione, chiamiamola antica, che vuole essere in qualche modo anche valorizzata, giusto? Appunto la facciamo in Piazza Unità, che è un salotto bellissimo. Assolutamente sì, questo è il senso. C'è un disegno molto vecchio della fine dell'Ottocento in cui è rappresentato un comandante di reggimento che mette il cappello alpino sulla testa dei nuovi arrivati, e quindi è una tradizione lunghissima che però già da qualche anno abbiamo voluto un po' così rilanciare, e rilanciarla non soltanto con la cerimonia ma addirittura portando gli alpini ad addestrarsi sul luogo in cui si svolgerà questa consegna, e anche poi arricchendo con conferenze culturali per spiegare anche il mondo alpino e soprattutto il mondo degli alpini di oggi. Appunto la città per parecchi giorni, quasi una settimana, sarà tra virgolette invasa dagli alpini, che avranno anche attività addestrative. Certo, sarà una settimana invasa dall'alpinità, quindi il corso lo completeranno proprio sulle falesie intorno a Trieste, e ci sarà poi il concerto della fanfara, ci saranno degli eventi culturali. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Per lo sport il calcio, con la sconfitta dell'Udinese da parte della Juve per 3-1. La terza rete è arrivata su rigore a tempo quasi scaduto, ma i bianconeri hanno avuto molte altre occasioni di gol. Nel servizio anche il commento a fine partita del difensore Cristian Cabasele. La Juventus ritrova la vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, mettendo KO 3-1 l'Udinese all'Allianz Stadium nel match valido per la 9ª giornata di Serie A. Vlahovic sblocca il risultato al 5° minuto di gioco su calcio di rigore. Zaniolo pareggia i conti subito prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa è l'Udinese a partire meglio, ma all'ora di gioco la Juventus torna in vantaggio grazie al colpo di testa da distanza ravvicinata di Gatti. I friulani poco prima del recupero sfiorano il pari con Baio, un gran colpo di testa e palla che esce di pochissimo alla sinistra di Di Gregorio. Al 6° minuto di recupero l'arbitro assegna un altro rigore alla Juventus per un fallo in area su Yıldız che dagli 11 metri spiazza Okoye e chiude la partita. La Juve sale così a 15 punti in classifica, agganciando la zona Europa, mentre l'Udinese rimane ferma a quota 12. Nel prossimo turno i friulani torneranno tra le mura amiche per ricevere l'Atalanta. Abbiamo sofferto un po' di più nel secondo tempo, ma anche perché la Juve ha giocato meglio, secondo me. Ha messo tante pressioni su di noi e non siamo stati bravi per essere calma con la palla, per avere più di ripartenza. Quindi certo su questo punto dobbiamo lavorare intanto, perché facciamo 45, 50, 60 minuti positivi e dopo non riusciamo più a giocare come prima, quindi c'è ancora tanto da lavorare. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket a 2 con la vittoria casalinga della Gesteco, che ieri sera ha battuto Scafati 76-70, a fare la differenza l'efficienza offensiva. Contro le grandi si scatena. Dopo Verona, Cividale batte in casa anche Scafati e lo fa mostrando la sua migliore versione stagionale. Dopo un primo tempo frammentato, i campani, forse la squadra che hanno speso di più nella costruzione del roster per provare a ritornare in A, sono avanti ma non scappano mai. Questo perché, nonostante le polveri bagnatissime dall'arco, segna solo Redivo e la distanza siderale, la Gesteco è brava a cercare falli e a convertire i liberi dalla lunetta quando l'attacco non gira, rimanendo così a contatto. Nella ripresa Pillastrini scappa con il quintetto italiano, con Redivo e Freeman in panchina. C'è un buon Cesana, ottima la chimica con Amici, e un Francesco Ferrari che, pur silente, si prende la responsabilità della tripla a fil di sirena del terzo quarto, che vale il più 8. Da lì quasi tutta discesa con una buona gestione, un ossimoro se si pensa alle montagne russe che da sempre caratterizzano i friulani. Rota mette 11 punti tra le due squadre, poi con Allen e Mascolo, giocatori di caratura superiore, Scafati riesce a tornare a meno 3. A questo punto, a turno, tutti diventano protagonisti: Marangon con un rimbalzo offensivo, Rota con un'altra tripla e infine, quando gli ospiti sono di nuovo a meno 3, Freeman si inventa un passaggio lob che Ferrari tramuta in una schiacciata da NBA, un gesto atletico raro da vedere in A2, figuriamoci da un italiano. Non contento, dopo una bomba dell'ex Apu Carotti da lontanissimo e un canestro di esperienza di Freeman al volo su assist di Redivo, l'MVP dell'Europeo Under 20 vola di nuovo, stavolta in difesa, stoppata su Allen andando a spostare la retina con la testa. Scafati si lamenta per una possibile interferenza, ma finisce qua 76-70, 5 in doppia cifra per i ducali, che ora, guardando la classifica, possono mirare in alto invece che guardarsi le spalle. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti nell'ambito degli incontri di storia promossi dal collettivo degli storici del Friuli Occidentale, La Storia e le Storie, Plinio Longo, un medico controcorrente, a Udine, a Palazzo Antonini Stringer, alle 18. In programma oggi la conferenza sulla battaglia di Lepanto, scontro tra civiltà, a Trieste, nella sala maggiore di Palazzo Tonello, in via Pellico, alle 17. Nel solco di Go 2025, l'associazione Tesis di Pordenone propone il secondo dei due appuntamenti dedicati al tema dei confini. Il giornalista, regista e fotografo Valerio Nicolosi presenterà il suo libro Attraversare i confini, nella biblioteca di Pordenone, alle 18. Si svolge oggi la finale del 29° premio pianistico internazionale Stefano Marizza nell'ambito della rassegna I concerti del Tartini. 3 giovani pianisti finalisti si esibiranno nella prova conclusiva e il pubblico sarà chiamato a votare, contribuendo all'assegnazione dei premi, nella sala Tartini a Trieste alle 20:30. Verrà presentato oggi il libro di Roberto Kovacs, Gorizia Nova Gorizia, niente da dichiarare, a Gradisca di Sonzo, nella sala conferenze del Polo Culturale di Casa Maccari alle 18. Nell'ambito della rassegna Storia in città, una storia di bugie, le fake news nell'età contemporanea, l'incontro con Mirko Carattieri, sull'ordine è già stato eseguito, la resistenza e le false notizie a Trieste, al Museo Sartorio, alle 18. Confindustria Udine e Adecco promuovono il convegno Giovani e Impresa, un ponte per il futuro, a Udine nella Torre di Santa Maria, dalle 16:30. Un inno alla leggerezza e all'eleganza, nonché al fascino intramontabile dell'operetta, il secondo concerto di Io sono sinfonica si intitola Omaggio a Strauss, fantasia di operetta, e celebra il bicentenario della nascita di Johann Strauss, il re del valzer, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 20:30. Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia inaugura la sezione musica e balletto del cartellone 2025-26 con una produzione locale che affida la direzione a Marco Feruglio e che vedrà sul palco la Nord-Est Sinfonia e il coro Ars Atelier con il maestro Mattei Acernic per l'esecuzione del concerto Soirée Française alle 20:45. Era la nostra ultima notizia per questo giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Walter Vidonis. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.